reportage. COP21, la lunga attesa di Parigi, di Laura Bettini. A quanto pare ci siamo davvero. Il Comitato di Parigi è convocato per le 9 di oggi per prendere visione della bozza finale di accordo per contenere il riscaldamento del pianeta. Per l'Unione Europea un appuntamento molto vissuto, lungamente preparato. Sappiamo che l'Europa e di conseguenza l'Italia ha una strategia già in campo da tempo per la riduzione delle emissioni di CO2 che provocano il riscaldamento del pianeta. L'obiettivo attuale della UE è il 2030 con un taglio del 40% delle emissioni rispetto al 1990, ma Parigi si guardava al 2100. L'accordo a quanto pare porterà per l'Unione Europea delle soddisfazioni, ma anche qualche delusione, come è comprensibile quando a trattare sono 195 paesi e l'Europa conta uno. I punti su cui si è discusso più a lungo e che hanno portato a rinviare ad oggi l'accordo sono stati non tanto quelli dell'obiettivo finale di 2 gradi o 1,5 gradi di riscaldamento massimo, ma soprattutto gli aspetti finanziari, nonché la definizione degli impegni dei paesi in via di sviluppo e non, e di quando si passa da una categoria all'altra. Sono previste revisioni quinquennali degli impegni, senza sanzioni ma con una sorta di obbligatorietà già contenuta nella sottoscrizione dei partecipanti alla convenzione quadro dell'ONU sul clima. Questo è quanto si evince dalla bozza. In particolare abbiamo sentito Francesco Lacamera, capo della delegazione tecnica italiana. Sentiamolo. L'accordo è all'interno di un accordo che è già di per sé vincolante perché è la convenzione quadro, quindi è un accordo che deve innestarsi dentro e quindi per sua natura ha un carattere vincolante. È un accordo di implementazione della convenzione quadro. Poi le azioni che sono previste sono più o meno vincolanti, ma la struttura è solida. Non dovete concentrarvi sulle parole magiche in cui in genere poi alla fine viene fuori la notizia. Concentrarvi sul fatto che oggi qui a discutere questa roba ci sono 90 paesi. Allora, la formula è questa, è l'incontro che ha visto la presenza di capi di Stato e di Governo in numero maggiore in tutta la storia delle Nazioni Unite. Che passo indietro vi è toccato fare che forse le dispiace di più? Devo dire che ho l'impressione che tanti passi indietro non ne stiamo facendo. Voglio solamente alla fine capire bene il meccanismo di revisione, quanta parte di questo sarà obbligatorio o meno, ma già com'è adesso il testo sarebbe un testo assolutamente accettabile. E che l'accordo sia concentrato sull'aspetto in cui l'Italia aveva già cominciato a focalizzarsi già 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Siamo stati noi in sede Unione Europea a dire che la governance era l'unico aspetto rilevante e quello più significativo di questo accordo. E tale è oggi e tale sarà. E poi anche aver contribuito a aver costruito questa ipotesi di capacity building che ha funzionato, perché ha in qualche modo stimolato una maggiore disponibilità dei paesi in via di sviluppo che hanno cominciato a credere nella nostra posizione. Per sciogliere i tecnicismi, il pacchetto ha 2 componenti principali, l'architettura dell'accordo vero e proprio e gli strumenti operativi, cioè le decisioni indirettamente vincolanti. Il ponte di collegamento è il processo di governance, quindi di governo. Un elemento determinante sono i meccanismi di finanza per il clima, poi concessi dai paesi più avanzati per la capacity building, capacità di crescita, diciamo in questo contesto, dei paesi in via di sviluppo. Giovanni Lavia, capo della delegazione del Parlamento europeo e presidente della Commissione Ambiente al Parlamento europeo, ci ha così illustrato la sua soddisfazione per il processo e anche le delusioni che ha vissuto l'Unione. Ce la dovremmo fare, ci siamo, perché c'è la volontà di farlo, c'è la consapevolezza che siamo vicini. Dopo 2 notti nelle quali si sono fatte le 5 del mattino a parlare delle rispettive posizioni, le posizioni si avvicinano e quindi ci sono le condizioni per poter raggiungere un accordo. Cosa prevederà questo accordo? Intanto prevederà che dopo una discussione sui 2 gradi di massimo aumento della temperatura, diciamo che dovrà essere ben al di sotto dei 2 gradi. Non c'è l'1,5, ma c'è il ben al di sotto. Ben al di sotto, well below i 2 gradi. Cioè, sostanzialmente abbiamo trovato una formulazione che possa star bene a tutti, e questo è l'esempio del negoziato rispetto all'obiettivo. Poi si declinano le azioni, e nel declinare le azioni si dice come questi INDC, come sono stati chiamati, questi impegni nazionali volontari alla riduzione delle emissioni, sono la base del percorso. Cioè ogni Stato si impegna e gli altri verificheranno questi impegni. Ma gli impegni verranno rivisti ogni 5 anni. Cosa significa questo? Che man mano che andremo avanti, questi impegni potranno essere rivisti anche con obiettivi un po' più forti, però decidiamo di allineare tutti i riferimenti, decidiamo le metodologie con le quali fare il reporting, decidiamo le modalità di controllo, decidiamo quindi una serie di elementi che metteranno in evidenza come si sta muovendo ogni singolo paese, e non potremo pensare che qualcuno faccia di meno degli altri. Lei diceva prima che c'è qualcosa che però l'Europa ha un po' patito, diciamo, no? Siamo insoddisfatti come Europa del mancato inserimento dell'aviazione e dell'inquinamento prodotto dagli aerei e dalle navi. L'Europa ha vinto il premio Fossil of the Day per non avere, vedo già l'espressione, per non aver insistito abbastanza sulla decarbonizzazione, aver messo un punto fisso all'interno dell'Unione Europea su questo tema, ed è un tema che poi dopo ovviamente fa parte anche di questo negoziato e di quello che sarà il risultato della COP21. In realtà non è stata l'Europa, l'Europa era quella che ce l'aveva nelle proprie proposte la decarbonizzazione, ma ci si è resi conto a un certo punto del negoziato che non si poteva andare avanti perché sono troppi i paesi che non la vogliono. Quindi dei 195 paesi che sono seduti attorno al tavolo della trattativa, se ce ne sono 2/3 o 3/4 che non vogliono qualcosa, bene, tu puoi insistere nell'arrivare a una formulazione, ma se le idee non trovano consenso nella maggioranza, è ovvio che quelle idee le devi mettere da parte. Quindi nei preamboli metteremo qualcosa di più impegnativo verso la decarbonizzazione, ma nel testo dell'accordo, la parte che è vincolante, alla quale tutti poi dovranno sottostare, non ci possiamo portare la parola decarbonizzazione. E anche di decarbonizzazione, che vorrebbe dire l'abbandono dei combustibili fossili, quindi carbone e petrolio, stiamo parlando di questo, anche di decarbonizzazione, dicevo, abbiamo parlato con Gianni Silvestrini a Parigi. Gianni Silvestrini è il direttore scientifico del Kyoto Club. Qualche elemento possiamo ragionevolmente pensare che ci sia, come il fatto che l'obiettivo finale deve essere quello di non sorpassare i 2 gradi, ma probabilmente andare sotto, andare verso 1,5 gradi. Questo non c'era in tutti i trattati e in tutte le convenzioni passate, ed è stato il merito delle piccole isole aver spinto e aver creato un accordo di attorno a 100 paesi su questo punto. Dove però vedo difficoltà è la coerenza tra un obiettivo così ambizioso, che significherebbe sostanzialmente decarbonizzare l'economia entro la metà del secolo, e la revisione degli impegni che i paesi hanno assunto in vista di Parigi, nel senso che questi impegni sappiamo che non consentono di arrivare neanche a 2 gradi, si parla di 2,7 gradi, 3 gradi, è previsto una revisione periodica, ma un conto è se questa revisione periodica inizia nel 2023-2025 o se comincia nel 2018, per esempio, perché a questo punto c'è la possibilità di dare un colpo d'acceleratore e alzare gli obiettivi, a iniziare dall'Europa, dico io. Dare un obiettivo ravvicinato di revisione consente anche di avere maggiori certezze sugli obiettivi che si possono raggiungere, sulle risorse che si possono mettere, e qui entriamo sul tema delle risorse, perché è un tema delicato. Alla fine i soldi ci saranno, si tratterà di capire come dovranno essere gestiti, ma è certo che per esempio uno dei paesi che più resiste, l'India, che ha una base di centrali a carbone molto elevata, ma al tempo stesso spinge moltissimo sulle rinnovabili, lo dice chiaramente: se voi ci aiutate noi possiamo accelerare questa transizione. Quindi è molto un braccio di ferro proprio anche sul trasferimento di tecnologie. È un po' il conflitto che l'Europa vive diversamente, cambiate le cose anche internamente. L'Europa ha al suo interno anche paesi che hanno situazioni completamente diverse, dalla Germania alla Polonia c'è un abisso. Assolutamente, noi abbiamo una situazione della Polonia che è un po' come la situazione dell'India a livello internazionale, nel senso che una grossa altissima percentuale di produzione elettrica da carbone, con miniere di carbone che peraltro sono in gravissime difficoltà economica in Polonia, per cui la resistenza della Polonia probabilmente potrebbe essere superata andando incontro e aiutando per esempio a realizzare parchi eolici nel nord della Polonia, sono vicini alle condizioni della Germania del nord e consentirebbe anche in questo caso di accelerare la decarbonizzazione. Quindi è l'ambizione degli obiettivi deve coniugarsi anche con una flessibilità che consenta di capire come i diversi paesi possono raggiungere obiettivi più o meno ambiziosi. Diciamo complessivamente la valutazione può essere questa: la conferenza ha rappresentato una straordinaria occasione per mettere insieme energie positive, un elemento di catalizzatore per le imprese private, le città, gli stati che hanno deciso e dichiarato di volere mettere risorse economiche e darsi obiettivi molto ambiziosi. L'accordo arriverà al 100% stamattina, ha detto il presidente di COP21, che è il ministro degli esteri francese Fabius. Noi di Radio 24 lo aspettiamo, ve ne daremo conto nei nostri giornali radio e alle 14.30 nell'altro pianeta. È tutto. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.